Kellogg, la realtà condivisa di Gianluca Nicoletti. Oggi mi piacerà tornare su un tema che ho più volte lambito nel corso di questi anni e più volte ho espresso molto chiaramente il mio punto di vista. Quando si sente parlare del popolo di Internet, addirittura il popolo di Facebook, ultimamente il popolo di Twitter, in occasione dell'ultima scossa sismica che ha interessato parte del centro-nord Italia, si è parlato del popolo di Twitter che improvvisamente ha dato un aiuto sostanzioso ai terremotati. Ma molto di più se ne sente parlare in questi ultimi giorni, ma è di stretta cronaca, riguardo alle ultime elezioni comunali che ha visto una decisa vittoria del Movimento 5 Stelle. Il grillismo ha cominciato a dare qualche risultato concreto. Alla radice di tutto questo esiste un'idea sulla quale questa mattina vorrei interrogarmi e confrontarmi con il pubblico, per cui la rete rappresenti un luogo di aggregazione, quasi una realtà concreta, in cui l'ideologia riesce a cementificare le persone, riesce a creare movimenti concreti di opinione, ha un peso reale sulla società. In sostanza, questo non voglio escludere che sia vero. La rete ancora è molto giovane per essere considerata un equivalente dei luoghi fisici, perlomeno per quanto riguarda l'effettiva risultanza di un movimento politico, di un'idea, di un'ideologia. In rete soprattutto è interessante perché esistono e si notano nuove forme di aggregazione. Quando queste nuove forme di aggregazione si traducono in sigle politiche, in movimenti politici, in qualcosa che il grande corpaccione dei media tradizionali legge, certifica, interpreta, in qualche maniera condiziona, diventa qualcosa che è un ibrido, che è a metà fra ciò che dovrebbe rappresentare le nuove utopistiche maniere di aggregarsi dell'umanità e gli antichi, vecchi, tetragoni e indistruttibili schemi che vorrebbero le persone inquadrate secondo un'ideologia, con un leader, con delle persone organizzate, organizzate in quadri, organizzate in strutture che agiscono sul territorio, prendono contatto col territorio, che scendono a compromessi con le persone che abitano il territorio, che insomma cercano il consenso. Dov'è la differenza? La differenza, devo dire, è qualcosa che ho individuato proprio pochi giorni fa e probabilmente sono stato, non perché voglia dei primati, fa ridere, i primi a dargli una sua lettura ufficiale in realtà. È qualcosa che un po' lambisce quelle provocazioni post-situazioniste che molto spesso crescono, albergano nella rete, durano per il corso di una stagione e poi non se ne parla più. Però è qualcosa di interessante, perché è qualcosa che rappresenta paradossalmente in realtà la rappresentazione speculare, l'antirealtà che si crea e cresce automaticamente alla crescita di una realtà. Mentre da una parte esiste il movimento del popolo della rete, il movimento di grillini, il web portato a cifra di luogo privilegiato in cui può crescere in maniera pulita, diversa, totalmente nuova, anche una forma rinnovata di politica, e altresì dal punto di vista chi la vede da fuori è la forma più deleteria, più distruttiva, più negativa dell'antipolitica. All'interno del web cresce anche qualcosa che rappresenta specularmente una sorta di sberleffo o di autodeterminazione o di passo avanti anche rispetto al movimento dei grillini, e questo è il movimento degli Indivanados. Questo è il cappio che il 16 marzo del 1993 l'onorevole Luca Leoni Orsenigo della Lega Nord sventolò alla Camera dei Deputati. Se la causa dei nostri guai non sono le pensioni, ma la causa dei nostri guai è il debito, allora vuol dire che qualunque sacrificio si faccia fare alla povera gente, questi sacrifici vengono ingoiati dal debito. Quello che ho sono molte, molte parole che ci avete mandato. Quello che ho è la parola patria, ce l'ha mandata a Mefengia. Avete sentito una sorta di sintesi di quello che potrebbe essere considerato l'humus in cui si muove il movimento degli Indivanados, di cui vi lascio qualche attimo di sospensione, qualche attimo di attesa. Avete sentito un blob di alcuni programmi televisivi che stanno alla parte dei giusti, dalla parte della televisione che non si mette in ginocchio, che non piega la schiena e che ha sempre detto la sua, che comunque nel totale rispetto del punto di vista è una televisione che in sé equalizza una serie di persone che la seguono con grande affezione, consigliano in quella televisione proclamarsi una lettura corretta della realtà, mentre al di fuori di quel tipo di televisione sono alcuni programmi, sono Ballarò, sono i programmi di Santoro, sono i programmi di Formigli, sono i programmi di Floris, sono i programmi di alcuni giornalisti che comunque rappresentano un punto di vista antitetico rispetto a quella che potrebbe essere sembrata in questi ultimi periodi, in questi ultimi anni, la lettura ufficiale il grande padrone e dei mezzi di comunicazione di massa che dappertutto portava il suo verbo. Beh, l'indivanado è una sorta di indignato. L'indignados è stato un movimento che ha dato dei segnali concreti, reali, nelle piazze d'Italia in questi ultimi due anni. Se ne è parlato moltissimo anche nel nostro paese, ma è un movimento che viene anche da lontano. Beh, l'indivanado è qualcosa di mezzo fra l'indignado, che in realtà calca le piazze e porta visibile di fronte alle televisioni la propria indignazione, anche in forme virulente, anche in forme molto, a volte anche violente. L'indivanado è un indignato, ma il luogo in cui lui rappresenta la sua indignazione e la sua azione politica è il suo divano. È indivanato perché è un indignato che sta sul divano. E cosa fa l'indivanato? L'indivanato sta davanti alla televisione, segue tutti questi programmi di cui vi abbiamo dato un assaggio e partecipa. E qual è la sua partecipazione? È la partecipazione soprattutto attraverso il web. Twitta, manda tanti tweet, manda i tweet di solidarietà, manda i tweet arrabbiati, manda i tweet che rappresentano il suo punto di vista, che poi non è un punto di vista originale, è il punto di vista di tutti gli indivanados. Il movimento degli indivanados è la versione comoda, low cost e last minute di quello più noto degli indignados. Sono i rivoluzionari del sofà, che armati di telecomando partecipano attivamente a momenti televisivi pubblici come Ballarò, Servizio Pubblico, Piazza Pulita. Per i più pignoli e attenti c'è anche il report. Per i più giovani ci sono le Iene e per chi ha deficit dell'attenzione Striscia la Notizia. Snobbano porta a porta perché Vespa fa i plastici del luogo del delitto, perché è servo del regime, perché... beh, insomma, perché è Vespa. È un movimento nuovo, è finalmente qualcuno che si è autoassegnato un ruolo, o perlomeno ha cominciato a descriversi, a raccontarsi, perché finora tutto il popolo degli indignati, tutto il popolo di coloro che seguivano a tempo reale tutti i grandi programmi, di coloro che proclamavano, di coloro che se soltanto dici in mezza parola che non sia perfettamente in linea, non sia di totale ossequio, non sia di radicale crisi di standard di fronte a Saviano, di fronte a tutti quelli che in televisione proclamano la loro verità, e subito ti attaccano, ti verrei a prendere a casa, vorrei dirti in faccia quello che ti scrivo qua, sei un infame. Ma ha scritto uno ieri, per la trasmissione di ieri, non so cosa abbia detto di male, ma ha scritto un arrabbiatissimo: sei il peggio del peggio, una radio così non si tollera, vorrei potertelo dire in faccia, arrivando quasi alla minaccia, se non dici in faccia vuol dire mi vuoi menare. Beh, tutto questo, in una sua forma di reale, concreta autocoscienza, è il manifesto dell'indivanado. Single precari in casa dei genitori e coniugi mutuo accasati protetti da plaid multicolore conducono sul loro divano a tre posti accese battaglie e a video aperto contro il signoraggio, la casta, gli sprechi statali, le frodi alimentari, gli abusi edilizi, Equitalia e via dicendo. Poi ci sono anche gli Indivanados 2.0, che si indignano pesantemente su Twitter e Facebook. Dicono di non guardare la TV, ma poi se la guardano e come, in streaming o a spizzichi e bocconi su YouTube. L'indivanado è quella persona che dice: non guardo la televisione da anni, non ho più la televisione, però in realtà per dare sostanza alla sua militanza politica, al suo non movimento, al suo movimento ridotto sul suo divano, deve naturalmente vederla la televisione, guardare la televisione. Magari non ha l'apparecchio televisivo, non ha il televisore, perché sa tanto di retro, sa tanto di reazionario, sa tanto di negazione di ogni battaglia salutista, igienista, antispeculativa e antifonte di energia che non siano alternative. Però in realtà la guarda magari streaming, la guarda attraverso le selezioni che vengono vengono fatte su YouTube soltanto dei passi fondamentali di quella televisione. 800 24 00 24, quanto vi riconoscete nell'indivanado? Cosa ne pensate di questa nuova forma interessante, suggestiva, di non movimento politico? Osservare la televisione sul divano e partecipare via Twitter. Gabriel Ektorp, buongiorno. Sì, salve, buongiorno, sono Gabriel Ektorp. Io sono il portavoce di questo nuovo movimento. Ecco. Leader, non voglio assolutamente l'etichetta di leader, perché leader per me sarebbe troppo, come indivanato, sarebbe troppo impegnativo, troppo responsabilizzante. E tra l'altro ringrazio la trasmissione Melo per avermi fatto partecipare in collegamento telefonico, perché questo mi permette proprio di stare tranquillamente a casa mia sul mio divano e partecipare in questo modo, come è nello spirito del nostro movimento, poco movimento, il minimo possibile. Senti, io perché sì. Non mi va di prendere in giro gli ascoltatori, devo dire subito, quello con cui hai voluto definirti è uno pseudonimo, non vuol dire il tuo nome. Posso anche capire, perché in questo momento bisogna anche stare molto attenti, il vostro non movimento, il vostro è qualcosa che potrebbe avere dei fastidi, o perlomeno uscire allo scoperto, certo. In questo momento potrebbe essere per voi rischioso, ma ti dico anche perché, secondo me, perché vai a toccare la sacra icona della pura rappresentazione della politica nella sua forma più splendida, che è il grillismo. Sembra quasi che l'indivanado voglia prendere un pochino per il culo i grillini. Dimmi un po' se è così o non è così. Allora, diciamo che il movimento è trasversale, non ha una connotazione politica. All'interno del movimento indivanado ci sono molti grillini, molti seguaci di Grillo, e loro finalmente hanno trovato una persona che dice e fa cose giuste al posto loro. Quindi, avendo questa persona, loro possono stare tranquillamente sul proprio divano ad assistere ai successi di questo movimento, che per noi, con tutto rispetto, per noi è superato, perché la vera novità saranno gli indivanados, e questo si scoprirà nei mesi, negli anni a venire, perché siamo veramente tantissimi. D'altra parte, il silenzio dei media, voglio denunciare questa cosa, il silenzio dei media è assordante, evidentemente hanno paura di noi siamo convinti di questo, perché siamo troppi, siamo tanti per loro, e questo ci sembra incredibile, il fatto che loro continuino a ignorarsi, tranne Radio 24, di cui riconosciamo. No, io mi sono accorto, semplicemente mi sono accorto, esatto, che in questi ultimi giorni, diciamo questa ultima settimana, che è stata una settimana d'oro per la partecipazione in diretta 2.0 alle battaglie civili, c'è stato un attentato attribuito perlomeno in un primo tempo alla mafia, o comunque in concomitanza con una data importante, che è la data della strage di Capaci. C'è stata un'importante fondamentale pronunciamento politico nelle elezioni comunali, in cui ha visto scombinare tutte le forze politiche. Insomma, c'è stato il terremoto. Leggo oggi un titolo che avete pubblicato sulla vostra pagina Facebook degli indivanati: grazie a Twitter mi sono tranquillizzato, la paura correrete. C'è questa esaltazione del potere dei new media o dei mezzi di interconnessione 2.0 anche nelle grandi catastrofi. Grazie a Twitter i terremotati sono meno terremotati, quindi vi siete fatti venire le piaghe da decubito in questi giorni a star sul divano e a twittare e a prendere parte non attiva alla politica. Esatto, le piaghe da decubito purtroppo sono una delle conseguenze negative di questa lotta ad armi, cioè lotta a video aperto, come la definiamo noi, però siamo determinati nella nostra indignazione nei confronti del terremoto. Voglio segnalare l'indignazione nei confronti di una certa, da una parte, una certa spettacolarizzazione da parte dei media dell'evento, poi la tendenza anche rispetto ai fatti di Brindisi a trovare subito il colpevole, a sbatterlo in prima pagina. Quindi c'è stato anche un pronunciamento da parte nostra molto, molto forte da questo punto di ma vista. Ma siete stati voi, oggi leggo sui giornali, Ruotolo massacrato dal popolo del web. Allora, sì, allora va detto, noi spiego. Sandro Ruotolo, valente giornalista da anni, Santoro, si è fatto prendere un po' la mano e, stando a Brindisi, ha cominciato a twittare tutte le caratteristiche, nome, cognome, indirizzo, del presunto mostro di Brindisi, quando poi in realtà era un povero signore che aveva solo il problema di fare l'elettrotecnico e probabilmente di essere claudicante. Allora, Sandro Ruotolo è sempre stato un mito per i Indivanados, che poi gli Indivanados, voglio dire, fra una parentesi, è un movimento che parte prima dal web, dai social media, noi abbiamo una data di riferimento che è il 21 ottobre 1987. Samarcanda, la prima puntata di Samarcanda. Storica, eravamo 1.400.000, eravamo tantissimi già lì, c'era il presidente del Consiglio Giovanni Goria dell'epoca, c'era l'ospite di costume Moana Pozzi, c'era l'intervento satirico di Dario Fo, quindi già si ponevano le basi del movimento. Da Sandro Ruotolo all'interno del gruppo di Santoro è sempre stato un mito, un mito. Probabilmente la sua età nei confronti di questo fenomeno social media fa fatica a comprendere il movimento, a comprendere il social media. Si è lasciato prendere la mano dal giochetto elettorico. Quindi io penso sì, all'inizio ci siamo indignati. Lui pensava di twittare a Michele, ma in realtà twittava tutto esatto, il mondo. Esatto, però io vorrei dire un po', voglio dire anche a tutti gli inattivisti, insomma, nei confronti di Sandro Ruotolo, abbiate un po' di considerazione nel fatto che comunque una persona che, insomma, la sua carriera è ineccepibile e probabilmente ha sbagliato i tempi, ha sbagliato i modi. Tutto i suoi qui. Capelli bianchi li ho giustificati. Esatto, purtroppo influiscono. Abbiamo già delle telefonate. Lorenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Un indivanato? Sì, esatto, io volevo solo esprimere la mia opinione, io sono un indivanato. Quindi esistete, non è un'invenzione? Come? Cioè, siete realmente un coordinamento nazionale, fra di voi vi coordinate e fate delle azioni sul web, non attive naturalmente, ma che danno un segnale, ne prova... Sì, ma io più che altro sono un indivanato, diciamo, isolato, sono praticamente... Purtroppo perché causa il lavoro non posso essere un indignatos, perché quindi, non ho tempo per andare in piazza, allora l'unica cosa che mi rimane da fare è quella di esprimermi sul web. Dal divano, quando sei la sera a casa. Dal divano, purtroppo. Ma quindi c'è anche un motivo oggettivo, non tutti si possono permettere di manifestare, di scioperare, quindi la sera arrivi a casa e giustamente invece che guardarti la partita o invece che andare a giocare a scopone al bar... Ti metti sul divano e fai la tua giusta non azione politica twittando la tua indignazione. Marcello. Ciao Gianluca. Un altro indivanato? Sì, io sono un indivanato da sempre, nel senso che seguo le trasmissioni che tu citavi dalla loro nascita e dai progenitori di queste trasmissioni e naturalmente anche i fatti, le vicende politiche che si sono susseguite, il governo precedente. Mi ha reso naturalmente un indignato, però un indivanato perché ho 68 anni e indivanato perché quindi fra di voi non c'è un limite anagrafico, uno può essere indivanato anche in età avanzata. Beh sì, diciamo che io sono indivanato a 68 anni, allora fra un po' metterai la traversina per incontinenti sul divano e continuerai a fare non azione politica. Esatto, beh no, però ecco, questo volevo dire, esiste, secondo me c'è qualcosa che va detto, cioè se un indivanato sarà a 68 anni, quando tutto sommato è fortunato, gode ancora di una pensione. E tanto chi lo vede, sta a casa, può anche restare. No, non è vero, perché ha tutte le caratteristiche per poter scendere in piazza. Io il 15 ottobre c'ero a Roma, cioè voglio dire, c'è una sorta di indignati della terza età, che pensano ai loro figli, non hanno niente da perdere perché ormai, voglio dire, sono nella terza età e si buttano, cioè sono un po' Invece che andare a guardare i cantieri lungo le strade, invece di andare a guardare i cantieri col cappelletto, i sandali, i calzoncini corti, eccetera, vanno in piazza. Ecco, direi che non siamo in pochi, che posso dire, il 15 ottobre c'erano nonni di famiglia, pensionati, gente che non avrei mai immaginato. E così anche quando c'è stata quindi ti trovi rappresentato in queste persone che hanno avuto il coraggio di dirlo, siamo degli indivanati, no, non ci prendiamo in giro, però dal nostro divano possiamo comunque fare qualcosa. Senti, fermiamoci un istante, dobbiamo dare la linea alle informazioni della borsa. 800240024, abbiamo delineato per sommi capi quello che è un movimento di cui nessuno ancora aveva parlato, quello degli indivanados, sono gli indignati che stanno sul divano, che guardano la televisione e attraverso gli strumenti del web 2.0 manifestano la loro indignazione. A tra poco. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Beh, il no Berlusconi Day perché c'era un'esigenza diffusa tra la gente di voglia di pulizia. E inizialmente è stato un fatto principalmente etico, poi è diventato anche politico. E come blogger l'abbiamo percepita questa cosa. In soli 5 giorni, solo 2 blogger hanno mobilitato l'Italia intera. Quindi ci siamo resi conto che c'era una voglia di ribellione pazzesca. La cosa infatti che sorprende è proprio che attraverso il mezzo di internet c'è stata un'adesione, appunto, come dice lei, pazzesca, più di 300.000 fans. Non è che diciamo, questa mattina ci siamo inventati gli indivanados, semplicemente che abbiamo osservato che da qualche giorno con molta insistenza su Twitter, su tutti i social media, c'era questo hashtag, questa sorta di ricorrente idea degli indivanados, perché abbiamo scoperto che in realtà questa è un segmento cosciente che è uscito allo scoperto di un pensiero che già circola tanto tempo. Queste interviste, avete sentito, sono interviste del popolo viola, anche loro dicono: due blogger hanno mobilitato milioni di persone, un'infinità di persone, è stato sufficiente un blogger perché accadesse questo. Io tempo fa osai scrivere qualcosa, non mi ricordo nemmeno bene che, di critica verso in generale l'idea del blogger, sono stato attaccato violentemente, un signore sconosciuto di cui non mi ricordo nemmeno l'identità si è fatto portavoce paladino dell'idea metafisica del blogger, quando io stesso avevo aperto e chiuso decine di blog della mia vita. Gabriel Ektorp, leader, se si è così si può chiamare, degli indivanados, hai sentito, queste cosa sono dei vostri precedenti storici o indivanados inconsapevoli, queste signore del popolo viola che scendono in piazza con la loro bicicletta con scritto Noel dietro e dicono: dei blogger ci hanno portato in piazza? Dunque, in parte sì, ma in realtà sono più un'ispirazione in senso negativo, cioè in parte negativo, nel senso, mi spiego, la mia, adesso lo dico mia perché anche se il movimento è di tutti, eccetera, però intuizione è venuto proprio in Piazza Maggiore, in Piazza 21 Bologna, quando c'era proprio una manifestazione degli indignados e c'era un cartello degli indignados che diceva: la rivoluzione non si fa seduti sul sofà. Io indivanados, diciamo ante litteram, cioè ho trovato questa affermazione quasi offensiva, cioè io invece ritengo che dal sofà deve partire il cambiamento. Sarebbe una discriminazione, perché... scusa, perché potete avere una vita normale come qualsiasi essere umano, anche voi che state inchiodati sul sofà. Certo, perché noi siamo normalissimi, noi abbiamo, purtroppo il problema è noi non possiamo scendere in piazza, cioè noi non possiamo, cioè noi abbiamo i nostri problemi, abbiamo un mutuo, abbiamo dei figli, una famiglia, c'è chi, ecco, qual è, diciamo, c'è chi in casa dammi non... esattamente, se possibile, una tipologia media dell'indivanato. Ha chiamato un signore di oltre 60 anni, quindi esatto, è trasversale. Anche... è trasversale anche l'età, insomma, si va proprio da ragazzi magari che guardano più le Iene, ecco, quelle cose lì un pochettino più meno noiose, no, dove c'è più brio, campanelli, pimpun, fischietti, insomma, e poi si va anche al signore di una certa età che comunque ha ancora una sua, quella poco di energia che gli consente anche, insomma, l'età, la sfoga a casa sul proprio divano guardando queste trasmissioni. Invece di dire i rosari davanti all'immaginetta di Santa Teresa di Calcutta, lo fa davanti la Gabanelli, qualcosa del genere. Esatto, la Gabanelli è un mito indiscusso del Nivanaso, cioè il Nivanaso ha un timore reverenziale nei confronti della Gabanelli. Io penso che qualsiasi Nivanaso, penso di interpretare il sentimento comune, se trovassimo la Gabanelli per strada di fronte a noi ci sentiremmo quasi in colpa, perché sicuramente avremmo qualcosa. Allora fermati un istante, altri due indivanados. Mario, buongiorno. Buongiorno a tutti. Un indivanado. Io la devo ringraziare perché questa mattina ho scoperto di far parte appunto di questa categoria e un po' con frustrazione e un po' mi rallegro di questa cosa. La frustrazione viene dal fatto perché appunto, come diceva anche Ektorp Gabriel, si hanno dei mutui da pagare, una famiglia da mantenere, si sostengono dei ritmi assurdi a causa dei lavori che si fanno e quindi non si ha il tempo. Guarda, c'è un defibrillatore acceso, qualcosa del genere, sento un rumore. Ecco, sente? No. Mi sente? Sì, adesso sì. Ok. Quindi dicevo, si è quasi impossibilitati a poter partecipare attivamente e questo crea frustrazione e io, ripeto, mi sono scoperto questa mattina essere un indivanado. Quindi oggi è il giorno del vostro orgoglio, l'orgoglio indivanado, finalmente potete uscire allo scoperto. Sì, e spero che effettivamente siano profetiche le parole che sta dicendo Ektorp Gabriel, che in questo modo riusciremo comunque sia a cambiare qualcosina, pur sembrando un po' più oziosi rispetto ai più... Però vi alzerete domani mattina, è tutto uguale, come dice uno dei vostri ispiratori. Massimo, buongiorno. Sì, Massimo. Buongiorno. Sì. Mi sente? Sì. Sì, buongiorno, guardi, io non sono un indivanato, volevo soltanto muovere una critica costruttiva al movimento. nel senso che è sicuramente utile da un punto di vista conoscitivo e culturale, che ognuno si faccia la propria cultura nel modo in cui vuole, che sia attraverso un sistema informatico o la televisione o quello che sia. Dico soltanto che alle volte è troppo comodo nascondersi dietro il fatto che ognuno ha i suoi impegni, ognuno ha le sue cose. Nel senso che io non credo che tutti dobbiamo scendere in piazza a protestare, eccetera, eccetera, a fare chissà quali cartelli, però credo che una partecipazione cittadina, ognuno nel suo piccolo, nella sua comunità, possa essere qualcosa di più reale e più tangente. Lei quindi, diciamo, è critico, riporta ai valori della tradizionale militanza, il tradizionale attivismo politico, che porta anche lo spostare la propria massa fisica dal divano alla piazza. Questo mi sembra un punto di vista rispettabile. Alessandro Lanni, buongiorno. Buongiorno. Alessandro Lanni è docente di giornalismo politico alla Sapienza, è un giornalista, ha scritto Avanti Popoli, Piazze, TV, Web, Dove va l'Italia senza partiti, Marsilio Edizioni. Ti ho fatto ascoltare in silenzio un attimo questa cosa che da questi giorni si sta registrando in rete, perlomeno nelle punte più avanzate di Twitter, però probabilmente anche la punta estrema di qualcosa che tu hai studiato e analizzato nel tuo libro. Questo spontaneismo legato al web è realmente il crogiolo di ciò che è accaduto in questa fine settimana, di cui oggi si legge ancora in titoli dei giornali: Grillo divide il PD e il PDL si scioglie. Veramente nel web è nato tutto questo? Guarda, intanto vi dico, ieri io non conoscevo questo movimento. Ma io lo conosco da due giorni perché me ne sono accorto per caso. E mi viene in mente però che ieri c'era un magnifico ritratto di Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera, che raccontava il vero capo degli indivanati, cioè Beppe Grillo, che nella sua villa di Marina di Bibbona, invece di presentarsi e festeggiare in pubblico e in televisione, twittava la sua gioia attraverso appunto questo social network. Ecco, ben seduto sul divano, si faceva riprendere via Skype e pubblicava il video sul suo blog Beppe Grillo. È questo che si dica, però, rispetto a tutte le immagini trionfanti dei leader che si concedono l'abbraccio della folla, si abbracciano, baciano le bandiere, stappano champagne. C'è qualcosa di nuovo? È cambiato qualcosa veramente anche nelle parole di passo e nelle immagini simboliche della politica? Io credo che lui abbia costruito in questi anni, ma in questi anni non solo di vita sulla rete, anche in precedenza, una reputazione così forte che può permettersi di farsi riprendere in penombra, come sono le immagini sul suo blog, se ci andate adesso, e senza che questo crei turbamento. Il politico deve andare lì e certificare in televisione ancora la vittoria o giustificare la sconfitta. È come la signora, allora, quando mette la foto nel suo profilo di Facebook per fare la fighetta, mette quella del mare con la macchina fotografica messa dall'alto, lei è perfettamente abbronzata con quel taglio di luce che sembra anche figa quando magari non lo è. Esattamente. Mi veniva in mente un'altra cosa a proposito dei divani. C'è un'espressione americana abbastanza negativa, quella di couch potatoes, le patate da divano. Certo. Sarebbero quella classe media prodotta dalla televisione, un po' diciamo l'icona è Homer Simpson, il capofamiglia dei Simpson. Non vorrei appunto che gli indivanados siano semplicemente un'evoluzione di quella dimensione lì delle patate da divano, ecco. Vediamo, ci fermiamo solo un istante che do la linea alle informazioni del traffico, ti risponderà il loro leader, se così si può chiamare, e cerchiamo di capire meglio con te che hai studiato profondamente il problema e l'emergenza, questa nuova forma di politica, quelle che sono le analogie, perché molti dicono che in realtà è sempre una forma di leaderismo, per quanto si illudano di un movimento perfettamente orizzontale, improntato sulla comunicazione e sulla condivisione tipica del web, in realtà riproduce esattamente gli schemi del più tradizionale dei movimenti politici. Melog, la realtà condivisa. .800 24 0024, sto vedendo l'esplosione del potere di fuoco degli indivanados, lo vedo su Twitter, dove sono esaltati, finalmente è il giorno del loro orgoglio nazionale, possono fare il loro coming out e dire sì, siamo indivanati, basta di chiamarci in maniera diversa, basta di prenderci in giro, basta di attribuire a noi fantastiche e metafisiche qualità, siamo persone che stanno sul loro divano perché è la forma più comoda, è l'unica cosa che ci possiamo permettere, per torniamo a casa, abbiamo il mutuo da pagare, abbiamo i genitori che ci mantengono, abbiamo i nostri pensieri, perché dobbiamo scendere in piazza? Ce ne stiamo tranquilli, comodi sul divano, siamo la punta più avanzata del pensiero digitale. Poi c'è dei punti in comune rispetto a questo movimento degli indivanados di cui stiamo parlando adesso, 80024 per tutti coloro che vorranno proclamare la loro appartenenza, visto che non credo che sia un reato dirlo questa mattina. Ho notato dei punti in comune con una zona particolare, con una città particolare della nostra, del nostro paese, che è Bologna. Il leader degli indivanados non a caso è un bolognese, non a caso parla di Milena Gabanelli come loro eroina, come sacerdotessa impalpabile della loro liturgia, che comunque è una persona che distanza è a Bologna. Non a caso il centro, l'humus dell'attivismo politico, della reazione alle forme vecchie di politica, la città più attiva, la città del Dams, la città di Umberto Eco, la città di Zanardi e Pazienza e via dicendo, è proprio Bologna. E abbiamo lo storico e uno dei più attenti osservatori della bolognesità, che è Danilo Maso Masotti. Danilo, buongiorno. Pronto, ciao. Questa mattina tu hai già assistito a qualche cosa da annotare nel tuo osservatorio, l'umarel indivanado che ha detto: io invece di andare a guardare i cantieri me ne sto sul divano e partecipo alle manifestazioni di piazza quando mi muovo. Cosa ha in comune il tuo pensiero, la tua osservazione con il movimento degli indivanados, da cui prendi naturalmente le distanze, perché molti ti hanno anche attribuito in passato l'appartenenza o il grande vecchio degli indivanados e Masotti, hanno detto? No, non è vero, no. Io non sono, anzi io per primo non sono un indivanados, io principalmente mi occupo di indivanados nelle ore in cui non possono guardare la televisione, quindi io faccio dell'entertainment per impiegati principalmente e poi ovviamente osservo gli umarels, ma l'indivanados alla fine è un'evoluzione 2.0 dell'umarel. Mi ha fatto molto piacere sentire un 68enne sentirsi insomma in divanado, ecco, quella è stata una cosa. Anche per, diciamoci Danilo, questa famosa generazione digitale, che però saremo noi, vanno tutti dai 50 in su, siamo noi che smanettavamo a metà degli anni 90, che oggi ritroviamo capelli bianchi, ancora mastichiamo di questa roba, fra un po' ci avremo il pannolone e avremo in mano l'ultimo modello di laptop o di tablet naturalmente. Sì, noi siamo vittime di quel fenomeno che io chiamo adultolescenza, quindi noi, soprattutto le persone anche molto nerd, stanno molto meglio adesso che in anni critici, come quando avevano tipo dai 15 ai 20 anni, ecco. Sì, anche perché attraverso gli strumenti fantastici del web 2.0 possono millantare giovinezza, vigoria, fascino e quindi ogni tanto raccattano anche qualche povera sdaura che invece di andare a fare la spesa si ferma un attimo sul computer del figliolo e si immagina di essere una principessa. Alessandro Lanni, riprendiamo con te, ricordo autore di Avanti Popoli, Piazze TV, Web, Dove va l'Italia, Senza Partiti, Marsilio Editori. Vediamo un po' l'idea. Non so bene se questa mattina stiamo confezionando qualcosa che è semplicemente una grande burla, una grande irrisione del populismo in rete, o semplicemente sono persone che dicono esattamente quello che sono, quello che fanno, quello che esattamente è la realtà. Ma sull'idea del populismo, di questa sorta di bonapartismo, di idea del leader, delle qualità fisiche del capo, in rete ha una sua trasposizione. Tu hai appena detto Grillo sul divano in penombra, in fondo bello, anche se bello non è, equivale un po' a Berlusconi che si tingeva i capelli con l'asfalto e si metteva la calza sulla telecamera prima di andare in onda. Sì, Grillo io credo che per molti versi, come dire, possa definirsi, senza che questo abbia un valore particolarmente negativo e critico. No, analizziamo una realtà. Un populista, lui ha costruito appunto tutta quella reputazione che poi ha portato in rete, fuori dalla rete, questo è indiscutibile, è un comico, viene chiamato il comico, è un comico che faceva televisione, faceva spettacoli con folle oceaniche già 10 anni fa. Sì, che prendeva, che prendeva con la ammazzata i televisori in piazza per mostrare il suo neoluddismo fanatico. Sì, sì, i computer stessi, quindi lì c'è stata un'inversione computer, sì. Che forse non gli farà tanto piacere ricordare. Sicuramente erano strumenti demoniaci per loro, ma è giusto ripensare il proprio pensiero, non c'è nulla di male. Perché io credo che abbia trasposto un po' questo modo di stare sul palco in rete. Grillo usa il suo blog come un palco, diciamo. Sì, però non a caso, i primi eletti, grazie a Grillo, dicono ma noi non siamo Grillo, hanno votato me, non hanno votato lui. E già comincia a esserci una sorta di rinnegare il proprio capo carismatico. Questo è interessante, infatti oggi ho scritto un pezzetto proprio su questo, sul rapporto Coco Pro, un po' l'ho chiamato, tra eletti e Grillo. Cioè sono contratti a progetto, non assunzione a tempo indeterminato come era quella nei vecchi partiti. C'è la necessità di segnare un po' la differenza adesso nel momento in cui si diventa istituzionalizzati e quindi un po' meno eversivi. Quindi se si prende il pacchetto della fluidità e della liquidità della società 2.0, si becca anche il fatto che per il leader è un contratto a termine, a scadenza, non è una fedeltà per la vita. Poi si è visto, coloro chiedevano il sangue, i giuramenti sulle acque sacre del fiume, come sono finiti, quindi anche giusto e adeguato ai tempi. Sì, infatti, io non credo, quando si parla di partito in franchising, no? Si sta in questa logica, se poi l'azienda madre viene scavalcata oppure non serve più, ci si mette in proprio, ecco. Sono le dinamiche della new economy, e d'altronde è giusto che valgano anche queste. Si può prendere solo la parte divertente e lasciare poi la parte sgradevole. Walter, in divanato, buongiorno. E niente, io sto sentendo cose interessantissime che non immaginavo che si potessero rivelare dalla radio. Queste cose che sta dicendo ci sottovalutava, sottovalutava. Sì, no, a lei sicuramente no, anzi forse è anche un po' Gabbanelli pure lei, ecco. Sì. Soprattutto la barba ci somiglia. Non lo so, volevo semplicemente dire questo, che io la sto lasciando crescere anch'io per questo. No, io no, io mi sono identificato in questa cosa ascoltando la trasmissione, in questa cosa dei come si chiama, Indivanados. Però volevo aggiungere una cosa soltanto, poi vi lascio, che io personalmente la mia storia, non so se anche quella di tanti altri che oggi sono divanados, viene da molto lontano e da lotte durissime che abbiamo fatto in piazza anche Ahimè ci voleva, non potevamo farne a meno, non che questo venga considerato come un atto di riconoscenza nei confronti di Vanados, ma colui che parla di lotte di piazza, della vecchia generazione, non è più adeguata ai tempi. Oggi è il mondo degli Indivanados, quindi domani non ci saremo noi, faremo uno speciale sull'assemblea annuale di Confindustria, quindi non ci sarà Melo, ma avrete una giornata in più per riflettere su dove sta andando la politica, e lo potete fare tranquillamente dal vostro divano.